Raccontiamo ancora cos'è questo festival. È un'occasione per passare attraverso il nostro mestiere, quello che amiamo, e raccontare il territorio. È un'idea, l'idea di coinvolgere le persone in quel progetto di vera formazione del pubblico, creare l'inclusione necessaria per costruire questo elemento fondamentale per lo spettacolo dal vivo, che è il pubblico. Quindi trovare le connessioni, visto che è un altro tema forte del festival, per pensare, parlare dei grandi temi del nostro tempo e riflettere su questo, stando in ascolto e guardando dei progetti da noi scelti che riteniamo delle perle nel mondo dello spettacolo dal vivo. Come si caratterizza questa edizione? Chiude un triennio, questa 26esima edizione, triennio dove le innovazioni sono state molte, a partire dall'elemento suono che aprirà il festival, fino alla chiusura che è appunto questa trasposizione della Bohème di Puccini in occasione delle celebrazioni del grande maestro, con l'utilizzo di questa infrastruttura che è appunto Connessioni, che ci dà la possibilità di mettere in scena la prima forma esperimento di spettacolo ubiquo, ovvero uno spettacolo usufruibile dal pubblico nei vari luoghi dove si svolge contemporaneamente, quindi una parte live e una parte virtuale, e in mezzo c'è tutta la parte multidisciplinare performativa dove si ricercano i luoghi più belli e suggestivi negli orari opportuni, senza essere invasivi a livello tecnico, chiedendo agli artisti di vivere questi luoghi come fosse casa loro o il loro piccolo giardino, piccolo grande che sia, con la novità anche dell'ingresso di una nuova amministrazione molto importante, quella di Pontedera, che allarga il bacino a valle a compimento di un'operazione che vuol vedere la Valdera intera inclusa dentro questo progetto, quindi il parco fluviale questa piccola frazione che si chiama La Rotta, un altro posto suggestivo. E poi c'è Cassano Terme con la Torre Aquisana, e quindi andiamo a valorizzare anche quei luoghi che rischiano di perdersi nella memoria delle persone. Quanti sono gli appuntamenti e com'è stata la scelta artistica? Sono circa 30 spettacoli tra teatro, danza e musica. Questi spettacoli si sviluppano sia a livello di pura messa in scena che a livello performativo. Ci sono una decina di tante prime nazionali, collaborazioni con realtà anche del mondo della danza importanti, vedi, del Teatro Mu di Budapest, con i quali abbiamo iniziato una collaborazione per i prossimi 3 anni, e unitamente a professionisti noti e meno noti, perché ci piace anche lavorare su emergente il panorama del teatro, della musica nazionale, ci sono anche appunto questi appuntamenti dedicati a progetti che si sono sviluppati nell'arco dell'anno con gli abitanti del luogo, quindi vere messe in scena sempre adattate al luogo, specifiche per il luogo in cui si svolgono, e con la conclusione di questa chiamata al coro cittadino di Bohème, che vede la partecipazione di persone che non fanno questo di mestiere, ma che hanno questa occasione di vedere cosa c'è intorno a una produzione, cosa voglia dire realmente, e provare quell'emozione dell'andare in scena. Quindi è questo, come ho detto all'inizio, la ricerca di una vera interazione con il pubblico e con le persone. Un festival non è un progetto che deve cadere dal cielo, ma deve essere qualcosa che rende orgogliosi gli abitanti di un territorio come il nostro, che vuole svilupparsi attraverso eventi come Collinaria. Tutti i riferimenti web per il programma? www.collinaria.it, ovviamente i canali Facebook e Instagram, dove ci sono aggiornamenti in tempo reale. 26esima edizione di Collinaria Festival del Suono all'Ari dal 12 luglio al 3 agosto 2024. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Loris Seghizzi. A presto! Grazie a voi, a presto, grazie. Con Paola Capata e Annalisa Enzana, fondatrice e coorganizzatrice della mostra diffusa Straperetana al Borgo di Pereto dal 13 luglio al 18 agosto 2024, ben trovate. Ben trovati a tutti, grazie per l'intervista. Grazie a te, grazie mille. Raccontiamo cos'è. Trapelletano è un'iniziativa che nasce nel 2017, ideata da me e dal figurante con il supporto curatoriale di Sara Riverini e Matteo Pato, e si svolge nel borgo di Pereto, che è un borgo di 600 abitanti della Marsica, in Abruzzo, al confine con il Lazio. E per un mese gli spazi interni di palazzi storici e di del borgo vengono abitati dall'arte contemporanea, e nel corso di questi 8 anni, siamo arrivati oggi all'8ª edizione, abbiamo avuto più di 100 artisti italiani internazionali passanti per Pereto e molto spesso anche lavorando in maniera festifica all'interno del borgo. Come nasce tutto? Nasce dall'esigenza di voler portare l'arte contemporanea in una dimensione più umana, più colloquiale, più a contatto magari con anche la persona comune, e quindi un po' al di fuori di quelli che sono gli spazi istituzionali come possono essere quelli dei musei o delle gallerie private. Sì, perché il progetto, come tanti altri, perché questo tipo di operazioni di arte contemporanea o di arte in generale diffuse sul territorio, diffuse in contesti non propriamente specifici per l'arte, è una modalità che funziona moltissimo, soprattutto perché toglie quella allure di sacralità che magari al museo, alla galleria, e riporta a un tono più colloquiale, più immediato, il rapporto con le opere che vengono realizzate dagli artisti. Quindi è un tipo di processo e di progetto assolutamente vincente, che tra l'altro permette di riscoprire dei luoghi che magari normalmente non sono visitati o non sono sotto la luce dei riflettori, perché qui parliamo anche di un progetto che porta le persone nella provincia più provincia a riscoprire un paesino millenario che ha un suo bagaglio culturale che non va dimenticato. Cosa prevede l'edizione di quest'anno? L'edizione di quest'anno l'abbiamo voluta chiamare supernaturale perché ci interessava il rapporto degli artisti con la natura, soprattutto perché appunto Pereto è un paese totalmente immerso nella natura, e abbiamo coinvolto una serie di artisti, sono 17 quest'anno, nazionali e internazionali, grandi artisti o assoluti esordienti, di lavorare con il concetto della natura nel senso più ampio possibile, quindi dal paesaggio nel senso più tradizionale del termine all'ambiente, che è un tema altrettanto importante nella contemporaneità, al corpo, sia fisicamente il rapporto con lo spazio della natura. Com'è stata la scelta degli artisti e delle artiste? Io e Annalisa ci siamo interfacciate quasi per un anno, perché diciamo il dialogo su questa edizione inizia già a dicembre, e abbiamo pensato a degli artisti che avessero un'idea di paesaggio allargata all'interno della loro pratica, e quindi abbiamo un pochino studiato chi poteva effettivamente non solo partecipare a questa edizione tenendo presente bene il tema, ma anche appunto che tipo di lavoro poteva interagire con gli spazi interni ed esterni del borgo. Quindi in realtà ha avuto una gestazione piuttosto lunga, e abbiamo artisti storici importanti come Hamish Fulton, a artisti middle career come Padre Tutto Fuoco, ad artisti giovanissimi che vengono dall'Accademia dell'Aquila, con la quale la Trapelletana quest'anno ha instaurato una sorta di sodalizio di collaborazione. Quali saranno gli spazi interessati all'esposizione? Gli spazi interessati all'evento sono Palazzo Mattopani, che si trova ai piedi di un castello medievale, Palazzo Iannucci, che è un edificio abbandonato che viene aperto solamente una volta l'anno per la Trapelletana, e proprio le vie del borgo, quindi piccoli vicoli, piccoli anfratti, anche spazi molto inusuali, muri, case abbandonate, finestre, porte. Lance per le affissioni. Esatto, come Federica Belli, per esempio, un'artista portata da Annalisa, bravissima, che avrà appunto due grandi fotografie affisse nelle plance, quelle dove il paese mette gli annunci, insomma, della comunità. Federica tra l'altro porta un lavoro molto bello che si chiama Mimesis, in realtà sono foto di lei stessa fotografata dentro la natura, quindi abbiamo voluto sfruttare lo spazio delle plance perché crea anche questo strano cortocircuito, perché si è abituati a vedere altro sulle plance delle affissioni pubblicitarie, invece ci mettiamo un'opera d'arte. E poi quest'anno la Trapelletana si avvale anche del contributo di un bravissimo artista che si chiama Agostino Iacucci, che ha realizzato un murale site specific proprio per il borgo, e che nei nostri intenti è quello di farlo rimanere proprio nella collezione del paese. Quindi di questo io e Annalisa siamo molto contenti, è un artista che Annalisa ha fortemente voluto e io ne sono felicissima. e poi sempre per restare negli spazi esterni, quindi visibili a tutti, anche chi non sa che c'è la Straperetana, ci sono queste bandiere fatte da Numero Cromatico, che è un collettivo super interessante di base a Roma, che ha scelto Paola, che ha lavorato in un modo molto laterale ma molto interessante con l'intelligenza artificiale, facendo produrre da un'intelligenza artificiale delle frasi sul paesaggio che verranno diffuse per le strade del paese, come dei piccoli stendardi, delle bandiere. È una mostra super variegata, noi siamo molto felici. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? Una pagina Instagram Straperetana, molto attiva, in cui abbiamo postato negli scorsi giorni dei ritratti di tutti gli artisti partecipanti, ci sono tutti i dettagli per fruire della mostra, che naturalmente è su prenotazione. La mostra è aperta il sabato e la domenica dalle 16 alle 20 con delle visite guidate che vengono fatte in queste 4 ore. Tutti gli altri giorni della settimana, quindi feriali, sono su appuntamento, bisogna scrivere una mail lì, insomma, nell'indirizzo che c'è scritto, o facci un colpo di telefono e noi ci organizziamo. Esatto. Che visto che ci siamo, ricordiamo che sabato 13 luglio dalle 5 alle 8 si terrà l'opening della mostra, quindi saranno presenti molti degli artisti partecipanti, si farà una bella visita guidata a tutto il percorso. E... ottava edizione della mostra diffusa Straperetana dal titolo Supernaturale al Borgo di Pereto dal 13 luglio al 18 agosto 2024. Un saluto e un ringraziamento a Paola Capata, fondatrice, e Annalisa Inzana, coorganizzatrice della mostra. A presto! Grazie, grazie. Grazie mille. A presto, vi aspettiamo. Con l'archeologo Enrico Ascalone, curatore della mostra Charisukte a Lecce, sì, al Monastero degli Olivetani, dal 13 al 28 luglio 2024. Ben trovato. Grazie, grazie mille. Di cosa si tratta? Si tratta della summa degli ultimi 8 anni di lavoro su questo sito, del sito UNESCO, che si trova in Iran orientale, nella regione del Sistan Babalucistan, quindi è non troppo distante, 7 chilometri dai confini con l'Afghanistan, 9 dal Pakistan, ed è un sito dell'età del bronzo che noi come Università del Salento scaviamo dal 2016 insieme a una missione iraniana diretta da Mansour Sajjadi, e un progetto di ricerca che quest'anno, oltre che gli scavi, manifesta anche con questa mostra che vuole un po' veicolare il messaggio scientifico a una più bassa platea. Cosa caratterizza questo luogo? Dal punto di vista storico-scientifico è particolarmente importante. Innanzitutto Charisukte è un sito UNESCO, quindi un sito che è particolarmente importante per gli aspetti monumentali e anche storici, perché è un centro che dalla fine del quarto millennio fino al 2000 a.C., quindi approssimativamente tra il 3005 e il 2000 a.C., svolse un ruolo egemone su tutto l'altopiano iranico, sia per quanto concerne il controllo della sua regione, sia per quanto concerne le interazioni commerci con le aree più lontane, dall'Asia centrale alla parte dell'Indo fino alla Mesopotamia stessa. Peraltro il nome della mostra, che è Charisukte quando il mito diventa storia, prende spunto da molti passi dei testi sumerici che ricordano una fantomatica città di Aratta costruita nei lapislazzuli, che dalle descrizioni geografiche, dal modo in cui Gilgamesh e suo padre Enmerkar ci arrivarono, sembra effettivamente poter essere collocati in Iran orientale. La letteratura scientifica in passato aveva proposto Charisukte, su questo naturalmente non c'è certezza, però come vedi, insomma, gli aspetti storici sono tanti, molteplici, connessi anche agli aspetti mitologici, quindi è un centro particolarmente importante, non da ultimo le scoperte fatte sulla matrilinearità del centro, oltre che naturalmente un tipo di struttura non gerarchica, un centro che propone modelli alternativi di sviluppo economico e sociale di una certa importanza. L'avevo trovato particolarmente interessante questo aspetto dell'importanza della figura della donna all'interno di questa società. È un aspetto che si riscontra in altre civiltà contemporanee sempre dell'altopiano iranico. un pochettino più occidentali, no? Come la società elamita, dove gli impianti iconografici, dei sigilli, dei rilievi rupestri danno un ruolo alla donna che, ad esempio, nei centri gerarchizzati di Mesopotamia è abbastanza sconosciuto. Cioè, su te, agli aspetti iconografici, appunto, delle propaggini elamite, aggiunge in realtà uno studio recente antropologico che abbiamo fatto sulle tombe della necropoli, che dimostrano come la gran parte della percentuale dei corpi rinvenuti sono donne. Generalmente in gran parte delle necropoli di tutto il mondo, che si tratti di necropoli, non so, vichinghe, piuttosto che azteche, o di siti appunto del Medio Oriente, c'è una percentuale abbastanza standard, cioè gli uomini sono rappresentati nelle necropoli per lo più per il 52% e le donne il 48%. Non perché gli uomini siano di più, ma perché le donne spesso sono difficili da identificare, perché l'identificazione sessuale passa tramite soprattutto lo studio del bacino, no? E soffrendo di osteoporosi le donne, molte dei corpi femminili sono non identificabili. E allora i rapporti nelle necropoli, ancora anche quelle più moderne, tra uomo e donna è questo, insomma, 52% circa uomini, 48% delle donne. A Charisouté abbiamo un rapporto spropositatamente invertito, cioè abbiamo 78% presenza di donne e il 32% degli uomini. Quindi una presenza sostanziale molto ampia della componente femminile, che si lega di fatto alle evidenze iconografiche delle regioni un pochettino più a est e anche alle evidenze del Pantheon di Girovt, che è una regione subito a sud di Charisouté, dove il Pantheon è completamente rappresentato da elementi femminili e non maschili, come invece ad esempio in Mesopotamia, no? Quindi queste componenti delle regioni attigue, in aggiunta a queste nuove evidenze statistiche che vengono dalle nostre analisi antropologiche, hanno permesso in qualche modo di riconoscere una presenza anche numerica della donna di gran lunga superiore a quella degli uomini. Poi ci sono altre evidenze che documentano come il lavoro svolto soprattutto nell'economia principale, che è quella della tessitura, nella creazione appunto di tessuti, di tessili, è certamente femminile. Insomma, tante convergenze che ci permettono di ipotizzare, come fatto su riviste scientifiche più recenti, una matrilinearità. Come si compone la mostra? Innanzitutto è all'interno di una dei monasteri, secondo me, più belli del Salento, ma insomma non vorrei esagerare penso anche d'Italia, perché il monastero degli Olivetani è un monastero che è dato nel XI secolo e attualmente quello che si vede è ciò che è rimasto dal 300. Quindi di fatto il contesto all'interno della quale la mostra è organizzata è particolarmente significativo. Si compone però anche di 141 pannelli fotografici, tra le dimensioni anche ragguardevoli, devo ammettere, perché alcuni raggiungono 1,20 m per 1,5 m. Quindi sono 141 pannelli fotografici che sono coadiuvati da pannelli descrittivi, perché la mostra vuole avere anche un valore didattico, che in qualche modo devono introdurre il fruitore, no? L'ipotetico visitatore della mostra, a una società così remota nel tempo, appunto parliamo di 6.000 anni fa, e nello spazio, parliamo di una regione più remota del Medio Oriente. Quindi è una mostra pensata per la divulgazione, per il turismo, visto che ci troviamo una città turistica in luglio, ma anche per la didattica. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Noi abbiamo dei profili social su quali sicuramente dobbiamo migliorare, tra cui un Instagram, ma su questi dobbiamo un po' fortificarci. Diciamo, questo fosse un punto di partenza anche per me, che cioè un approccio un po' più tradizionale. E poi altre evidenze su internet sono scientifiche. La mostra fotografica Charisouté, quando il mito diventa storia, a Lecce, al Monastero degli Olivetani, dal 13 al 28 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento all'archeologo Enrico Ascalone, curatore della mostra. A presto! A presto, grazie. Vi aspetto. Siamo all'agenda per gli appuntamenti della settimana sul teatro e gli eventi culturali più in generale con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Buon pomeriggio a tutte e tutti e cominciamo questa settimana un po' balneare, siccome siamo già a luglio inoltrato, appunto la cominciamo dalla nostra serie estiva, in qualche modo non è vero, non abbiamo una serie estiva, ahimè, però abbiamo gli spettacoli Verso il mare. E il Teatro Lido di Ostia ospita per quest'estate fino al 4 agosto per un mese questo Teatri d'Arrimbaggio, questa sua rassegna di spettacoli, e in realtà insomma è un festival in realtà multidisciplinare, e quello che va segnalato sicuramente di questo festival del Teatro del Lido che appunto Teatro di Rito Ostia, e che è completamente a ingresso gratuito, quindi insomma da non dimenticare. Se abbiamo amici verso Ostia, chi sta in vacanza, chi ci vive, insomma segnaliamolo. Allora, cosa andiamo a vedere questa settimana? Andremo a vedere il Mago Raffaello Corti con uno spettacolo che mi vedrei, precisamente il 19 luglio, mentre invece il 20 di luglio andremo a vedere la stand-up comedy con il repertorio di Sandro Cappai, appunto il Sandro Cappai Live, che vengono ospitati appunto entrambi dal Teatro del Lido di Ostia. Contemporaneamente ci sono anche spettacoli per bambini, ed è la cosa insomma probabilmente che segnalerei con più calore, e ovvero sia il lavoro La Gallinella Rossa di Accademia Perduta e Romagna Teatri, che domenica 21 luglio alle ore 19 sarà appunto in scena al Teatro del Lido. Segnalo anche in realtà che contemporaneamente vanno avanti anche dei laboratori molto interessanti, quello di animazione maschere con Francesco Picciotti e Francesca Villa. Segnalo anche, che so, ecco, il laboratorio di moda e cucito, ci sarà proprio questa domenica, 21 luglio, dall'8 ai 14 anni con Barbara Basciani. Insomma, una serie di cose interessanti da segnalare per l'attività estiva del Teatro del Lido. Procediamo ancora, andiamo avanti, perché questa settimana è il momento per andare a vedere anche il format Bar Campioni. Citavamo anche la scorsa settimana, il 20 luglio alle ore 20:30 andremo a vedere presso la piscina della polisportiva Villa Les Artis lo spettacolo 1 contro 0, ed è appunto questo lavoro è dedicato appunto al Bar Campioni, questa iniziativa per valorizzare le storie dei grandi sportivi mettendo in scena i contesti dei bar simbolici della periferia romana. Questo perché appunto insomma i famosi bar dello sport, no? Quello dove si parlava sempre di sport, dei grandi campioni, ecco, queste storie in qualche modo ritornano all'origine nei luoghi popolari più profondi, insomma, della Roma più profonda. E quindi con il direttore artistico Fabio Morgan, questo Bar Campioni, che dal 2023 è un progetto insomma sta via via radicandosi all'interno della città, torna in scena appunto a Villa De Santis. Segnalo ancora, ricordo, il 20 di luglio alle ore 20:30 con questo 1 contro 0. Allora, poi invece fermo per questa settimana sul piano teatrale sotto l'Angelo di Castello, andiamo a vedere cosa succede per sempre più fuori il programma dell'associazione Crampi per quanto riguarda l'estate fino al 19 luglio. Questa settimana al Goethe Institute, che è il luogo insomma diciamo della rassegna, andrà in scena questa ci sarà l'inaugurazione, c'è stata già l'inaugurazione fino al 19 luglio. Andremo a vedere questo Terre Sconosciute con l'ideazione di Paola Di Mitri. Si tratta di un lavoro di immaginazione geografica collettiva, un percorso immersivo, visivo e sonoro, coinvolgendo alcuni pazienti in cura presso Villa Pia Corian Italia, un centro specializzato nei disturbi alimentari e dell'obesità. Quindi molto interessante la mostra che appunto andrà in scena in questi giorni a Goethe Institute, dove vedremo anche La Stanza delle Tazze, diremo Salvadori, sempre una mostra esposta alla Galleria Pieroni nel 1986 a cura di Zerintia, che gioca sul volume delle superfici piatte, lavora un po' sullo spazio. Altra mostra sarà quella fotografica questa settimana, quella dedicata a Laila Pozzo, che ritrae la favolosità delle 7 protagoniste trans del film Le Favolose di Roberta Torre, sempre nello stesso luogo. Quindi ecco, il teatro, ma anche altro per quanto riguarda Crampi questa settimana. Al teatro invece della Fortezza Est, dal 16 di luglio fino al 25, da oggi, andranno in scena le pillole, tutto in 12 minuti. Sono insomma le presentazioni degli spettacoli, in pillole appunto, piccole presentazioni di spettacoli per la stagione del prossimo anno, 2024-2025. E quindi dal 16 luglio in poi, da oggi, ci saranno un po' di spettacoli di autori anche che peraltro conosciamo, che presenteranno appunto il loro lavoro, così da cercare di essere programmati nella stagione di Fortezza Est per l'anno successivo, quindi devo andare poi sul titolo, andare sul sito del Teatro della Fortezza Est per appunto vedere il programma più nello specifico, giorno per giorno. E poi questa settimana inizia e finisce pure 18-21 luglio a Villa Light anche la presentazione del progetto internazionale dedicato alle forme contemporanee della videodanza, curato da Roberta Nicolai, e appunto con alcuni protagonisti della videodanza internazionale. Andremo a vedere insomma cortometraggi provenienti da 17 paesi. Chi è appassionato di videodanza, è il momento di avvicinarsi a Villa Light. E segnalo le ultime due cose: Teatro Basilica, un fuori stagione, un primo assoluta, Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, e vabbè, questo lo conoscevamo, ma non ne sapevamo, diciamo, questa trilogia dedicata appunto a Proust di Duccio Camerini dal 18 al 21 luglio appunto in scena al Teatro Basilica. Ultima segnalazione è che questa settimana comincia il Roma Fringe Festival, e sarà in scena fino al 28 luglio tra il Teatro Vascello e lo Spazio Diamante, e sarà la finale al Teatro India. E ancora insomma una volta questa rassegna si prende lo spazio dell'estate romana, pian piano insomma andare a spostare sempre più verso l'estate inoltrata, e però curiosamente poi spostata all'interno dei teatri. Prima insomma si faceva all'esterno, mi ricordo i primi anni, se non vado errato, anche dalle parti della radio, diciamo, insomma, ogni tanto mi capitava di incrociare. E sono 21 spettacoli provenienti da tutta Italia, appunto si alterneranno in questi giorni, verranno presentati appunto questi spettacoli, poi insomma i tre spettacoli finalisti saranno presentati poi nell'ultima serata di fronte a una giuria per vedere insomma quale sarà il miglior spettacolo di quest'anno. Si comincia appunto oggi, anzi ieri a dire il vero, ma insomma diciamo che è oggi la prima, con alcuni lavori presentati allo Spazio Diamante, Barmuda, che è questo lavoro nato all'interno di Officina Pasolini, un po' al confine tra il teatro e la musica. E questa sera alle 20.30, a seguire ci sarà Vite Binarie, quest'altro lavoro, prima ancora il compleanno di Mucchi alle ore 19, insomma alle 20.30 un'altra compagnia dell'Emilia Romagna, con Gianni Francesco Bianchi, House with Left, quindi insomma un bel po' di presentazioni, un po' tutti i giorni ci saranno vari spettacoli. Invito appunto ad andare sul sito del teatro del Fringe Fest, romafringefestival.it, per vedere il programma completo. E con questo è tutto, ciao. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.